9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 24 di gennaio. Avete sentito il lancio è occuparsi di un tema che in realtà condiziona pesantemente la vita pubblica italiana, ma di farlo andando al dunque, andando a un precetto, al precetto morale, andando alla storia, al significato ancora che ha, per molti non ce l'ha più, per alcuni ce l'ha ancora, il vecchio precetto, quello che nell'ordine dei comandamenti cattolici è il sesto, che in realtà nell'ordine dei comandamenti antico testamentari del Pentateuco è il settimo, che nella dizione originale ebraica è non commettere adulterio, ed è rimasta così fino al Concilio di Trento, quando poi è diventato non commettere atti impuri. Sì, parleremo proprio di questo, è uscito un bellissimo libro e ne parleremo con gli autori. Non commettere adulterio, trovate per Il Mulino. Ma prima di entrare nel merito e prima poi di sentire voi come la pensate sull'etica pubblica, l'etica privata, la separazione delle sfere tra queste due concetti, che è una separazione in realtà recente, perché voi pensate che noi abbiamo aspettato solo il 1981 per vedere abolito l'articolo 587 del codice Rocco, che poi magari vi ricorderò, perché l'articolo 587 era quello sul delitto d'onore, insomma l'81, l'altro ieri praticamente. Ma al di là di questo, iniziamo subito a capire come la pensano gli italiani sui temi in oggetto, per così dire. Abbiamo con noi per pochi minuti, lo ringrazio perché è straordinario averlo, il professor Renato Mannheimer, che presiede l'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione e collabora con il Corsera. Buongiorno professor Mannheimer. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, due domande secche. Nei sondaggi recenti, gli italiani come giudicano due cose? Primo, il tema di cui stiamo parlando, cioè gli scandali o comunque le polemiche che investono sistematicamente da un po' di tempo a questa parte il Presidente del Consiglio sulla sua morale e l'etica individuale, personale e sessuale. Come giudicano gli italiani questo? E secondo, ma in realtà come gli italiani giudicano la morale sessuale, l'adulterio e così via? Che si vede una volta che si guardano i sondaggi nel tempo su questo, Mannheimer? Ma gli italiani giudicano abbastanza criticamente il comportamento del Presidente del Consiglio, lo giudica così criticamente una maggioranza degli italiani attorno al 60%, c'è una quota però dice non me ne importa nulla. In generale però il giudizio è critico senza essere criticissimo, diciamo così. Sul piano personale l'etica è molto cambiata in questi ultimi decenni, molto. Oggi si tendono ad accettare comportamenti che solo 30 anni fa non si accettavano, oggi solo una minoranza della popolazione vede in termini fortemente negativi l'adulterio e si tendono in generale ad accettare comportamenti una volta vietati. Quindi in realtà gli italiani sono diventati relativisti? Più che relativisti, hanno accettato delle cose che prima sembravano assolutamente impossibili. Ecco, una scappatella coniugale oggi viene vista in buona parte delle famiglie italiane come un momento di difficoltà ma superabile. Una volta era fonte di separazione, divorzio per tutta la vita. E dal punto di vista dell'etica privata e pubblica, esiste davvero questa anomalia italiana, se uno pensa al giudizio che danno in sondaggi analoghi le cittadinanze di altri paesi? Esiste davvero un'anomalia italiana, secondo lei, per cui nei sondaggi gli italiani dicono no, il Premier o il Presidente del Consiglio o figure di rilievo, insomma, pubblico istituzionale, possono fare a casa loro, ma in maniera anche che si sappia più o meno quello che vogliono, noi non ce ne facciamo inficiare nel giudizio, mentre altrove negli altri paesi c'è una netta invece distinzione da questo giudizio italiano, secondo lei? È così. E non riguarda solo l'etica del Presidente del Consiglio. Negli Stati Uniti un ufficiale importante pubblico si è dovuto dimettere perché non pagava i contributi per la cameriera. Da noi non pagare i contributi per la cameriera o la badante è uno sport nazionale e le discussioni al bar si fanno su come evaderli. È proprio, io non dico che l'America sia meglio o da noi sia meglio, voglio dire che è una cosa assolutamente diversa. E negli Stati Uniti se tu evadi le tasse ti devi di certo non puoi far parte di cariche pubbliche, ma in generale nel tuo ambito sociale sei redarguito, da noi sui giornali ci sono i manuali su come quantomeno erodere. L'ultima domanda, ma questa tendenza è una tendenza presente da sempre, accentuata molto, un po' come l'adulterio che è diventato un peccatuccio per gli italiani, oppure è permanente questo giudizio degli italiani sui peccati, per così dire, i difetti che un uomo pubblico può avere, tutto sommato molto più comprensibili che in altri paesi? Io trovo che sia un carattere permanente già da tempo. Negli anni 50 un sociologo americano, Banfield, parlava del nostro paese come del paese del familismo amorale, cioè si pensa alla famiglia, gli interessi della famiglia vengono prima di tutti senza alcun principio morale. Penso al tempo stesso che questa nostra amoralità, che badate bene, è stato anche uno dei fattori di sviluppo del paese da un certo punto di vista, non è detto che sia una cosa negativa, vorrei discuterne laicamente un'altra volta. Penso che questa nostra assenza di vincoli e di rigore morale si sia accentuata sicuramente negli ultimi anni. Va bene, grazie al professor Mannelli, grazie, che ci riporta molte. Quello che vede nei sondaggi, separato dalle opinioni, ma insomma i fatti sono questi, dice lui. Ma il discorso da fare inevitabilmente è quello di quale tipo di interazione vi sia nel diffondersi tra opinioni relativamente meno taglienti di un tempo sui valori, e l'esempio è ciò che si vede praticato dall'alto, dalle figure apicali non solo della politica e delle istituzioni, ma insomma dalle cosiddette classi dirigenti. Esiste un'interazione di questo tipo? Beh sì, nel medio-lungo periodo esiste senza dubbio, questa è la mia convinzione, come esistono però anche, per fortuna dico io, magari qualcuno la pensa diversamente, delle derive, delle tradizioni di lungo periodo che sono fondanti, e fondanti davvero, del nostro orizzonte etico, culturale, civile, lo sono stati per millenni, e anche su quello però c'è il tempo che erode, che scorre come un fiume che con il suo alveo smussa, leviga i sassi, li fa rotolare via. Che cosa sto parlando? Sto parlando di ciò che fondava e ha fondato per millenni la nostra etica in materia sessuale e di pubblico privato, e naturalmente sto parlando in quel caso di etica religiosa. Mi viene utile parlarne perché oggi ho deciso di riflettere insieme a voi su come voi per primi, visto che avete il giudizio che ha appena ricordato il professor Mannheimer, per cui in realtà sono peccatucci, per cui è giusto tutto sommato nel nostro paese immaginare che le classi dirigenti possano avere comportamenti che in altri paesi avrebbero ben altro tipo di giudizio. Vorrà dire che evidentemente ciò che ci portavamo nel retaggio, nella tradizione, da così tanto tempo è molto cambiato. Ecco, e allora in questo libro del Mulino, che si chiama Non commettere adulterio, che fa parte di una, secondo me, intelligente e riuscitissima collana in cui comandamento per comandamento, in maniera snella, agile e però contemporaneamente approfondita, il Mulino chiama una serie di autori a riflettere su quale sia l'evoluzione storica, il fondamento di quel comandamento. Sì, proprio le 10 parole di Dio, quelle, i 10 comandamenti, proprio quelle. E interrogarsi però anche sul come questi comandamenti siano nella nostra società attuale, italiana, europea, moderna, nel mondo contemporaneo, evoluti, erosi a volte, messi da parte, oppure abbiano ancora un significato profondo, siano distinti in tavole di priorità distinte, per cui oggi magari il non uccidere resta sì fondamento, il non rubare resta sì e no fondamento, e il tema di cui ci occupiamo oggi, cioè il settimo comandamento secondo la legge mosaica e il sesto invece secondo il nostro catechismo post-tridentino, siano ancora o meno un fondamento della nostra vita privata o della nostra vita pubblica. Allora questo, abbiamo con noi l'autore, uno dei due autori di questo libro, che è Paolo Ricca, il professor Paolo Ricca, che io ringrazio. Buongiorno professor Ricca. Buongiorno Buongiorno, buongiorno. Allora, il professor Ricca è un teologo, è un professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia ed è anche un professore ospite del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma ed è curatore per l'editrice Claudiana, una grandissima e benemerita editrice per chi è appassionato dei temi religiosi e dell'intreccio tra religiosità e società, ed è curatrice per la Claudiana delle opere scelte di Lutero ed è affirmato questo libro, firma questo libro insieme alla professoressa Eva Cantarella, che insegna istituzione di diritto romano e di diritto greco antico alla Statale di Milano. E questo libro è diviso in due, fondamentalmente. I due terzi sono appunto a opera del professor Ricca e sono una cavalcata nel tempo di interpretazione del non commettere adulterio, che nella tradizione, ripeto, dal Concilio di Trento poi è stato esteso alla sessualità in generale, non commettere atti impuri, perché non era così nella dizione testuale. Nella lezione testuale greca e latina è non commettere adulterio, e ci porta dall'interpretazione dall'Antico Testamento all'evoluzione del mondo ebraico a Gesù, a interpretare poi i due passaggi fondamentali dei Vangeli di Matteo e di Giovanni, in cui Gesù sull'adulterio rispetto alla durezza della condanna della donna, e solo della donna ovviamente, che esisteva nel mondo antico, apre una dimensione in cui c'è invece il perdono e l'umanità. E poi il professor Ricca ci fa ripercorrere i secoli successivi, perché dal IV secolo in avanti questa dimensione della comprensione e della fondamentale attenzione verso la donna viene invece invertita nella società. Già, a dire la verità, San Paolo era durissimo nel suo giudizio. Dal IV secolo si torna poi fino ai codici del nostro tempo, e cioè al pregiudizio antifemminile, a una pena asimmetrica, al diritto di morte che da imperatori con cristiani torna, come nel tempo antico precedente, a essere attribuito ai maschi ai danni dei quali è avvenuto l'adulterio. Io ricordo a tutti, prima di interrogare il professor Ricca, che l'articolo 587 del codice Rocco noi l'abbiamo abolito solo nel 1981. Cosa c'era scritto nell'articolo 587 del codice Rocco? C'era scritto che chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale, ripeto, del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dell'offesa all'onor suo e della sua famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia e con la sorella. Cioè, in parole povere, il padre, il marito e il fratello avevano il diritto di morte, se la cavavano con 3 anni di carcere. Questo articolo è stato abolito nel 1981 nel nostro paese. Forse è il caso di riflettere, visto che tutto sembra così improvvisamente mutare nel giudizio poi privato, pubblico, dei comportamenti, sul fatto che noi abbiamo invece una deriva bimillenaria, arcimultiplurisecolare alle spalle, che fino a meno di 30 anni fa era così codificata nel nostro codice penale. Allora, professor Ricca, parto dalla quotidianità, poi arriviamo ai temi del libro. A lei, che fa 3 sintetiche conclusioni sul tema non commettere adulterio dopo la cavalcata ermeneutica della prima parte del suo libro, in realtà la vicenda di cui stiamo parlando oggi, questa discrasia di giudizio degli italiani, sembra, rispetto agli altri paesi sui comportamenti pubblici in materia di sesso e classi dirigenti e in materia di come si vivano i rapporti di padre, di marito, cioè quando si rivestono incarichi pubblici, la colpisce o la conferma nel giudizio che esprime nel suo libro? Beh, no, mi colpisce nel senso che chi occupa posizioni di rilievo a tutti i livelli, anche nella comunità cristiana oppure nella comunità civile, è chiaro che ha un compito, un dovere di indicare delle linee di vita, e se queste linee di vita sono appunto come quelle che pare siano avvenute e avvengano con l'attuale Presidente del Consiglio, è chiaro che c'è lì un disordine profondo da tanti punti di vista, non soltanto dal punto di vista strettamente sessuale, l'adulterio nel senso del tradire una persona con un'altra, ma da tanti altri punti di vista che sono quelli della mercificazione del rapporto umano, del rapporto tra l'uomo e la donna, sono quelli della illusione che si crea in tutte queste ragazze, a quanto pare, insomma, di poter appunto attraverso questi favori sessuali o affettivi accedere a delle posizioni di responsabilità politica. Cioè c'è uno stravolgimento di tutta una serie di canoni, diciamo così, del nostro vivere civile, della nostra comprensione della polis, della città dell'uomo, che lascia veramente interdetti. E quello che lascia ancora più interdetti è che appunto questi comportamenti, che sono delle vere e proprie negazioni di principi costitutivi, credo, del convivere civile, vengano accolte con appunto con leggerezza. Non si hanno più le categorie morali e civili necessarie per censurare, per distanziarsi, per dire no, queste cose non sono possibili. Quindi devo dire che l'impressione generale, senza dare poi dei giudizi su questa o quella persona, perché in fondo poi Gesù ci ha detto una volta di non giudicare, e questo credo che sia una parola molto, molto saggia, ma perché ciascuno ha poi a giudicare se stesso. Ma ripeto, quello che mi impressiona e mi sconcerta è proprio questa caduta dei fondamenti, in fondo, della convivenza civile, o di alcuni fondamentali fondamenti, e quindi c'è da essere molto inquieti. Professore, le chiedo un secondo. Lei è arrivato a toccare un punto che secondo me è centrale. Quando ci interroghiamo tutti, per chi almeno ha frequentazione con il libro, ecco, quando ci interroghiamo tutti sul perché ci sia solo il Vangelo di Giovanni a riportare l'episodio dell'adultera, evidentemente forse perché gli altri tre sinottici lo considerano un po' delicato e scandaloso rispetto al tempo in cui viveva Gesù, sì, e rispetto alla tradizione rabbinica, perché lì il problema è che quando i farisei arrivano gli dicono: allora, questa adultera la condanni o no? Come dire, ti freghiamo, perché se ci dici di no, c'hai contro da tutta la legge mosaica, e quindi sei chiaramente un eterodosso, per dire così poco, sei un bestemmiatore, e altrimenti se ci dici di sì, ha tutto il tuo fondamento dell'insegnamento per cui cambi eccetera eccetera, come si vede, si riduce a nulla. E lui arriva al punto di dire: chi scaglia la prima pietra, appunto, non giudicate se non voi stessi per prima, come lei ci ha detto. Però siccome tutta la storia del comandamento nell'organizzazione dei poteri concreti della Chiesa e del potere secolare è una storia in cui invece si giudica, perché questo è il punto, si giudica pesantemente, si dà il diritto di morte, si trattano le donne, solo le donne, per secoli come se fossero loro gli strumenti dell'adulterio, e coloro che lo compiono, gli uomini no, perché questo va avanti così, e va avanti così fino a poco tempo fa. Allora, come poi, se questa è la storia che abbiamo alle spalle, adesso noi dobbiamo o non dobbiamo giudicare alla luce anche di questo fatto? No, io dicevo, la parola di Gesù non si riferisce al giudizio civile, certo, ma a quello personale, capisce? Perché bisogna fare questa differenza. La società ha un assoluto bisogno di giudicare, cioè di esercitare il diritto, di esercitare la giustizia. Queste sono fondamentali, perché appunto lo spettacolo a cui noi assistiamo in questi mesi o in questi anni è uno spettacolo che mina la convivenza civile nella sostanza, anche se nell'apparenza appunto uno può sorvolare per superficialità, per irresponsabilità. Ma e però, professore, se gli italiani nei sondaggi ci la pensano come ci dice Mannheimer, tutto sommato dicono: ma questi sono problemi sui quali non do giudizi, tantomeno poi li do in pubblico su quello che fanno come politici o come, che ne so, imprenditori, eccetera. Cioè, la relativizzazione, per cui ciascuno fa quello che più o meno vuole a casa sua, è molto spinta, e questa è spinta nel nostro paese su alcuni temi di più, su alcuni temi di meno. Quando si arriva a pensarla così, come si fa poi contemporaneamente a dire bisogna giudicare nella parte civile e pubblica? Perché se il fondamento etico individuale è un fondamento per il quale ciascuno è libero di fare come vuole, su cosa si costruisce il consenso poi di un giudizio pubblico? No, ma la legge è qualche cosa di oggettivo, guardi, non è qualche cosa di individuale. Lei è così convinto che sui comportamenti sessuali la legge è oggettiva? Perché questo glielo chiedo, proprio perché lo chiedo a lei per fondamento etico e teologico. Però se noi dovessimo chiedere davvero agli italiani, il Presidente del Consiglio, avendo o non avendo rapporti sessuali con una allora minorenne e facendolo in un contesto che è quello di cui si legge, per cui i padri dicono alle figlie fatti avanti e questa ragazza era minorenne ma conduce la vita che conduce, se sia davvero prostituzione, lei è convinto che gli italiani a maggioranza la considererebbero prostituzione? Il giudice è forte di una, nell'aula di tribunale in cui questo avverrà, se avverrà, è forte secondo lei di una convinzione molto forte che viene dall'ambiente italiano, dalle famiglie italiane a maggioranza? Questo no, appunto, ma purtroppo chi difende la legge, diciamo, quella che chiamo la legge oggettiva, la legge della città, cioè la città si costruisce sulla legge e quindi, diciamo, il giudizio del cittadino, del singolo cittadino, ha il suo peso naturalmente, per carità, però non è decisivo. Quello che è decisivo è il giudice, quindi non deve sentire il parere del cittadino, deve interpretare il senso della legge. Ora qui, in questo, come dico, non c'è soltanto il fatto sessuale, che tutto sommato può anche essere marginale, non è quello il punto, ma il punto sono tutte le altre implicazioni che mettono, che minano dei principi costitutivi, io credo, della convivenza civile. Ora la fermo perché ce l'abbiamo la pubblicità e siamo già in ritardo. Eccoci in studio, ci stiamo occupando di capire come gli italiani hanno cambiato giudizio e che giudizi esprimano sulle vicende delle notti di Arcore. Lo dico per tutti gli ascoltatori che mi attribuiscono l'intenzione di toccare questo punto in questa trasmissione, il motivo per cui lo stiamo facendo con un teologo protestante, come se fosse schierato di qua e di là. Non mi interessa e non mi schiero, non spetta a me giudicare, mi interessa fare una riflessione al di là se si sta contro o a favore. Questo sport ve lo lascio volentieri a chi mi accusa di dovermi vergognare perché ne parlo o perché non ne parlo, o di dimenticare di citare che il Presidente del Consiglio dice non ammette alcun tipo di rapporto sessuale, quindi per il solo fatto che io parli di libro non commettere adulterio mi schiererei per un partito colpevolista. Io non lo so come dirvelo, a me la cosa tribale per cui rispetto a qualunque interrogativo prevale lo schierarsi, abbassare la celata e la lancia in resta, ve lo lascio volentieri. Io non aderisco, non partecipo, non milito e non combatto. Sono qua per interrogare e per porci delle questioni. Mi è sembrato molto utile, poiché questo libro, Non commettere adulterio, di Eva Cantarella e Paolo Ricco, è molto bello e fa riflettere intorno a come un problema di fondo di una grande tradizione, quella del fondamento etico religioso, dice chiaramente non commettere adulterio, come questa cosa nel tempo è rimasta più che altro a carico delle sole donne colpevoli, considerate così, questo è il punto, e come invece adesso, in pochi decenni, tutto questo sembra non contare quasi più niente nella testa, nella coscienza e nel giudizio degli italiani, anche in relazione alla vicenda di Berlusconi. Ma la vicenda di Berlusconi è, per così dire, una ciliegina sul fatto che la torta della testa degli italiani sembra non avere più un giudizio così preciso su questa materia. Io non faccio l'apostolo dei tempi in cui si metteva nessuno a rogo, mi interrogo però sul fatto, mentre sia giusto, mentre sia profondamente giusto abolire quella parte di legge che era scandalosamente antifemminile e antiparitaria, dall'altra parte avere un totale relativismo nel giudizio di quello che ciascuno può fare, ci potremmo interrogare almeno su questo senza schierarci, ecco. Allora sentiamo come la pensano innanzitutto un po' di voi, cominciamo con Ugo che ci chiama da Catania. Ugo, prego. Buongiorno a tutti. Secondo il mio punto di vista la promiscuità non è un problema pubblico, ognuno ne deve rispondere al massimo ai suoi familiari. Sotto il profilo morale, e di questo sono certo, sotto il profilo giuridico devono decidere esclusivamente i giudici, è un problema se uno comincia a telefonare in questura per chiedere la liberazione di una come Ruby e dice che questa signorina è nipote di Mubarak. È immorale se uno comincia ad agire come Caligola, e non sto a spiegare che cosa intendo dire, ed è immorale che venga lanciato un messaggio di un certo tipo. Se io partecipo a un paio di feste al mese e alla fine faccio il mio lavoretto da prostituta, ho 100.000 euro l'anno, se faccio l'impiegata in un call center, se mi va bene arrivo a 10.000 euro l'anno e non ho nessuna certezza per il futuro. Va bene. È immorale che il numero di telefono del Presidente del Consiglio sia sulle rubriche delle prostitute, punto. Bene, Ugo ha un'opinione chiara. Sentiamo Roberta, una signora che ci chiama da Roma. Prego Roberta. Buongiorno, volevo dire che io e mia sorella siamo due mosche bianche. Siamo due settantenni, siamo state educate nella primissima educazione religiosa in un modo preconciliare, quindi è tutto rovesciato, non soltanto nella comprensione della Chiesa, che una volta era assolutamente un divieto, una condanna, anche commettere anche pensieri impuri, mi dicevano le suore, anche quando ti lavi, mi raccomando, effettivamente insomma non stava in piedi, però penso anche che oggi questo viene deriso, siamo due persone sole, vedo anche quelle rare volte che usciamo la sera, premetto che siamo due settantenni e non due ultracentenarie, anziane ma non proprio Certo, signora. No, è perché è giusto saperlo. Ora, in poco tempo, perché nella storia pochi decenni non sono tantissimi, ecco, c'è una rivoluzione totale del pensiero dell'accettazione, non c'è più una condanna, anche perché chissà cosa fanno tanti, perché tutte queste ragazzine minorenni che vediamo per le strade, come guadagnano tutti quegli enormi incassi che prendono? Da chi li prendono? Da persone che sono non sempre scapoli, è tutto qua. Ecco, volevo dire questo e penso anche che tutti dicono ma si dovrebbero guardare tutti nelle case, ma chissà, arrivederci. Grazie signora. Gianluca da Forlì, come la pensa? Io niente, volevo fare una riflessione. Secondo me certi comportamenti che a mio giudizio sono distorti rispetto alla morale sessuale di ogni uomo sono sempre accaduti se ricordiamo anche in passato, adesso stanno venendo fuori ultimamente alcuni comportamenti per il tempo dubbi e moralmente criticabili di alcuni nostri politici che avevano rapporti omosessuali con altre persone, per cui in passato certi tipi di comportamenti erano sottaciuti. In questo momento invece c'è una rincorsa da parte dei media a diffondere un certo tipo di comportamento disdicevole. Per cui quello che in definitiva quello che voglio dire io è ciò che si attacca e si addice al nostro Presidente del Consiglio è una cosa che a mio giudizio è sempre accaduta. Oggi certi tipi di comportamenti vengono sbandierati 420, in passato no. Sì, non so se siano sbandierati, perché ovviamente qui invece il Presidente del Consiglio dice che c'è una privacy violata, che c'è un'indagine che lo ha posto al centro, lui e le sue residenze per molti mesi, di quello che lui giudica e considera un elemento permanente di un accanimento giudiziario a suo stile. Quindi non è che lo metta in piazza, nemmeno Marrazzo metteva in piazza le sue frequentazioni, tanto per scambiare un'altra vicenda che ha costituito la rovina della sua carriera politica, perché il problema era poi se ci andava con la macchina alla regione, non con la macchina alla regione, che provenienza avevano quei fasci di soldi, più che il trans in sé. Però è inutile fare gli ipocriti, contava anche il fatto che fossero dei trans e non delle ragazze normali nel giudizio, perché il giudizio poi dell'opinione pubblica apparentemente è così indistintamente relativista, in realtà è poi ispirato a dei criteri che sono ben diversi nel distinguere i piatti della bilancia. Professor Paolo Ricca, ma come facciamolo? Perché magari qualcuno potrebbe pensare, ma in definitiva se Re Davide si prende Bezzabea, che non è la sua moglie, ci fa quello che ci fa un figlio, eccetera eccetera, poi alla fine, secondo la legge del mosaica del tempo, lì Bezzabea e gli altri dovevano essere messi a morte, e invece finisce che Dio perdona tutto. Davide mi è ricordato come una delle più grandi figure regali dell'antico Israele, e se Dio perdona a Davide, perché mai un giudice dovrebbe condannare il premier? Lo so, però lì c'è il riconoscimento della... Naturalmente, diciamo, Davide è una figura unica e quindi ci sarebbe da fare un lungo discorso, però la cosa fondamentale che differenzia la vicenda di Davide da altre vicende, anche capisco di che parliamo, la faccia sorridere l'accostamento, ecco, però. È che Davide si pente, Davide riconosce il suo peccato, lo riconosce, ci sono delle pagine impressionanti che esprimono questo fatto, invece qui è tutto il contrario, e questo è forse, vede, diciamo, certo il discorso sarebbe lungo, ma è una delle caratteristiche del nostro tempo, che nessuno è colpevole, soprattutto nella nostra società, e in particolare in quella italiana, nessuno è colpevole, sono tutti innocenti, e l'innocenza finta, irreale, unicamente virtuale, ma è smentita dai fatti più clamorosi, però continua ad essere proclamata, e questa è la grande differenza tra, diciamo così, il peccatore biblico, se posso dire, cioè il peccatore che si trova nelle pagine della Bibbia, e Davide è certamente un esemplare, perché lui non solo commette adulterio, ma per quello commette un omicidio dei più odiosi, cioè fa uccidere il marito di Bezzabea. E dunque, però lì, ecco, lì c'è il riconoscimento della colpa, invece qui non c'è, e questo fa una differenza, se posso dire, anche agli occhi di Dio. Ecco, che pure, insomma, non tocca a noi, sicuramente a me, forse a lei un po' di più interpretare. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Pensate Silvio di fronte a Dio. Buongiorno, eccoci, siamo tornati in studio. Io ricordo a tutti una cosa che mi aveva colpito all'epoca, ma leggendo il libro Non commettere adulterio di Eva Cantarella e Paolo Ricca, quando sono arrivato al pezzo in cui il professor Ricca ci ricorda appunto le parole di Gesù sui rapporti sessuali tra uomo e donna, ci ricorda questa cosa centrale dell'insegnamento cristiano, e cioè di vietare il ripudio per difendere la donna, che nel rapporto matrimoniale era la parte più debole e indifesa. E poi soprattutto questo passaggio, che poi è quello, per chi crede, che si sente ancora al matrimonio religioso, no? Cioè il passaggio che dice l'uomo non separi quello che Dio ha unito, che i discepoli che ascoltavano Gesù sul discorso alla montagna si interrogarono immediatamente su questa sentenza così, così irrevocabile: l'uomo non separi quello che Dio ha unito, e il commento tra di loro era: beh, vabbè, ma se questo è veramente così, questa è la legge, se questa è la nuova legge, beh, qui mica conviene prendere moglie. Devo dire che nei commenti dei discepoli lì per lì, secondo me, resta uno dei problemi aperti su questa faccenda, se appunto ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, perché il fatto è che la costanza dei vincoli e la fedeltà è la prova più difficile dell'argomento di cui stiamo parlando, prima ancora dell'estinzione tra le qualità private e quelle pubbliche. Sentiamo come la pensa Giorgio, che ci chiama dalla provincia di Lodi. Giorgio, in linea? Sì, pronto. Prego Giorgio, come la pensi? Io faccio un discorso molto molto molto più semplice, mi sento un po' l'uomo della strada, no? Dica. E davanti a quello che vedo e che sento, io faccio un discorso di questo tipo: se io lavorassi in una ditta, e quindi associo l'Italia a una ditta, e vedessi che il mio dirigente spende i soldi in un modo che posso ritenere improprio, mentre la ditta va male... Ma spende i suoi però, non quelli della ditta. D'accordo, però, sì, quello sono perfettamente d'accordo, però non ha la capacità di tirare sulla ditta, mi viene spontaneo dire cambio dirigente, perché bene o male io mi aspetto che il dirigente, al di là del fatto che possa dare l'esempio positivo o meno, chiarissimo, abbia le capacità per risolvere i problemi che io vivo ogni giorno. E questo mi pare di capire, se associamo l'Italia a una ditta, diciamo, l'amministratore delegato attuale pare che, insomma, se capisco bene Giorgio, cade in questa situazione, quindi sarebbe meglio sostituirlo. Piero da Roma come la pensa invece? Piero da Roma non vorrebbe sconvolgere l'uditorio, io la penso in maniera completamente diversa, cioè per me il matrimonio in sé è una forzatura. Bene, non c'è nessun mammifero superiore che in cui il maschio abbia una sola donna, non esiste, non c'è tra i cavalli, tra i suini, da nessuna parte. Ora è indubbio, secondo me, che la sessualità abbia una componente di natura animalesca, dopodiché noi possiamo fissare delle regole, a patto che sappiamo che... Cioè lei dice il matrimonio monogamico è una cosa... Devo dire che questo è un bel tema, perché lei sa che nella società dei patriarchi, insomma, nell'antico ebraismo, ancora ai tempi di Gesù c'era la poligamia, quindi questo è... Adesso Piero, vi sembrerà che mi mette chissà quale dito nell'occhio e vi sembra chissà quale primordiale cosa, però rispetto ai tempi lunghi della civiltà Piero solleva un tema che è di quelli che divide, non lo fa per provocare. Poi sentiremo adesso cosa ne pensa il professor Ricca. Paolo da Milano ancora, l'ultima chiamata, prego Paolo. Pronto, buongiorno. Proprio in riferimento a quanto sta dicendo Piero adesso, io metterei il discorso su un piano molto molto privato. Io chiederei a Piero se la sua donna, sua moglie, si presentasse da lui e gli dicesse: guarda, io vivo con te, amo te, però la sera faccio i festini a suon di frusta con 10 uomini. Vorrei sapere se il pensiero di Piero e il giustificazionismo che sento in giro rimarrebbe in piedi oppure continuerebbe per la sua strada. Lei dice c'è un pregiudizio ancora di genere a favore degli uomini in questo? Ma assolutamente, sento in giro tanta gente che dice: ma sì, è un uomo, dai, tutto sommato sono cose che capitano. Ecco, che si presenti la moglie di ognuno, il marito di ognuno, a dire: guarda, io faccio i festini la sera, e vedere se il giustificazionismo reggerebbe ancora. Diciamo la verità, ci fosse una donna in una posizione apicale in Italia verrebbe travolta se facesse cose di questo genere, fosse la presidente di Confindustria, fosse una ministra, diciamoci la verità, questo sono d'accordo con lei ed è inutile fare finta di niente. So che molti ascoltatori credono che io sia o abbia il pregiudizio opposto a favore delle donne, ma io sono convinto che se il presidente di Confindustria andasse sui giornali perché organizza casa sua privatamente con i suoi soldi, con quelle dell'associazione delle belle seratelle eccetera eccetera, io penso che ci sarebbe chi ne chiede e ne avrebbe le dimissioni in poche settimane. Magari mi sbaglio? Io penso di no. Questo è un altro aspetto su cui riflettere. Professor Ricca, questa faccenda del matrimonio monogamo e del progetto fedeltà, che lei poi arriva alla fine della sua interpretazione del settimo comandamento, è quello di dire: cerchiamo di capirci, rispetto ai tempi di oggi è un invito, ma è un invito alla fedeltà, a un grande sentimento, questa cosa del matrimonio monogamico. E però, malgrado la storia che era diversa, come ci ricordava il nostro ascoltatore, continua a non essere praticato. Come mai? Certamente è vero che l'uomo è poligamo, ma appunto se si parte dal singolo, dall'individuo, cioè se la norma, la regola di tutto è l'individuo, allora è chiaro che l'individuo, è vero, io credo anche che l'uomo forse anche la donna, ma certamente in altri modi e non con la stessa intensità, sia politico. Ma il problema non è questo, io credo. Noi parliamo della città, della civitas, della polis, cioè della società organizzata, non dell'individuo che vive da solo in un'isola. Non è la stessa cosa. E quindi io credo che la, chiamiamola evoluzione, per qualcuno sarà una involuzione, dal matrimonio poligamico al matrimonio monogamico, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi problemi che conosciamo benissimo, tutti quelli che almeno sono sposati e dunque sappiamo benissimo, tutto sommato è la soluzione più umana, cioè quella che rispetta di più nelle condizioni normali, poi sappiamo benissimo, certo, certo, che tante coppie sono degli inferni veri e propri. Infatti. Ecco, ma questo lo sappiamo, ma non possiamo prendere sempre il peggio. Ecco, ma diciamo come idea di fondo, io credo che sia tutto sommato quella in cui ci sia una misura di umanità maggiore. E su questa conclusione del professor Ricca, difficili da adottare, ma contrariamente è un bel libro perché scrosta di tutto il pregiudizio negativo verso gli atti impuri, il comandamento che era, ripeto, ed è non commettere adulterio, non commettere atti impuri. Detto tutto questo, vi consegno le vostre riflessioni, ripeto a tutti gli ascoltatori che dicono scandaloso, è scandaloso con la magistratura. Sì, io anche considero scandaloso con la magistratura metta tutto questo ambaradan su un tema che ci allontana ulteriormente da quelli del paese, però c'è un punto, il punto di questi valori toccati da queste vicende riguarda ciascuno di noi, e ricordiamoci che solo se tocca a ciascuno di noi forse possiamo avvicinarci a etiche pubbliche un po' meno lontane da quelle degli altri paesi. Grazie a tutti, appuntamento a domani, Lina Giornaradio.